raccomandatevi. E cominciamo i lavori in modo molto semplice, come è nella nostra tradizione, e tanto più in questa occasione. Voi sapete che i nostri non sono congressi, non sono convegni solenni, ma sono sempre delle giornate di lavoro in cui ci si confronta tra storici tedeschi e storici italiani nel modo più semplice possibile, cercando appunto che da questo incontro nasca una maggiore comprensione e possibilmente nuove idee. L'incontro di questi due giorni, non occorre dire, è particolarmente caro e non è un incontro come gli altri. È quasi impossibile però, di fronte anche ai ragazzi presenti, fare capire, credo, quanto il Hubert Hiedin abbia significato nella vita di molti di noi, in tutto questo arco ormai lunghissimo della sua vita. Ci ha lasciato presto, ma 1900-1980, è una vita piena come la sua. Ecco, si può cadere nel sentimentalismo, nella folla dei ricordi personali, perché Hiedin era soprattutto un uomo nel senso più pieno del termine. Dire questo sembra banale, insomma, ecco, però con tanti professori diciamo pure che non sono uomini, ecco, il fatto che Hiedin fosse un uomo per noi giovani è stata una cosa di un'importanza talmente forte, ecco, da non poter essere detta, anche se adesso sembra retorica. Quindi ci ritroviamo, però naturalmente possiamo fare un ricordo di Hiedin soltanto nella maniera in cui gli intellettuali devono farlo, insomma, cioè di dire quest'uomo che cosa ci ha lasciato. Molto semplicemente questo è il tema di queste due giornate, che cosa ci ha lasciato, e quindi di cercare di avviare, non certo di esaurire, una riflessione sul suo pensiero, sulla sua metodologia. Stamattina in primo luogo appunto dovrebbero essere oggetto di attenzione i grandi temi di tipo, diciamo così, generalmente teoretico, insomma, cioè il concetto di storia della Chiesa, il rapporto tra storia della Chiesa e storia generale, e la Chiesa e la teologia, eccetera. Poi nel pomeriggio dovrebbe esserci una considerazione invece dei temi più, diciamo, centrali nell'attività concreta di Hiedin storico, il Concilio di Trento, la vita religiosa del XVI secolo, ecco, e domattina invece, dopo la serata che sarà dedicata al suo profilo biografico, stasera in modo solenne e pubblico, da parte del professor Repgen, e con questo mi scuso anche del fatto che qui non facciamo nessuna solennità commemorativa adesso, ecco. Stasera ci sarà tutto l'onore per Hiedin, cittadino di Trento, canonico onorario del Duomo di Trento e tutte queste cose. Qui noi, ecco, ci limitiamo appunto a lavorare sulla sua eredità storica. Domattina, appunto dopo questa parentesi biografica, invece ritorneremo ai temi più biografici, quindi al suo insegnamento accademico, al suo rapporto con la storiografia tedesca precedente, cioè la sua formazione, la sua opera come editore e i suoi rapporti con Trento. Ecco, il nostro schema è sempre quello solito, cioè ognuno dei partecipanti, qui sono una trentina di studiosi che da varie università tedesche e italiane partecipano al seminario, alcuni sono specificatamente relatori, altri interverranno, ma non c'è una differenza di tipo formale. Ecco, ognuno parlerà la propria lingua, e nella ipotesi, che è la base del nostro istituto, che anche chi non sa parlare bene l'altra lingua la sappia comprendere quel tanto che basta a portare avanti il discorso nelle nostre discipline. Quindi ognuno parla la propria lingua. E il professor Vandruska, che è il nostro presidente dell'istituto e che presiderà questo simposio in onore di Hiedin, a cui do immediatamente la parola, come perfetto bilingue subentrerà nei casi in cui sorgessero delle punte di difficoltà o di incomprensioni linguistiche. Io ho finito, do la presidenza e la parola al professor. Grazie all'amico Prodi. Credo che stamattina io dovrei parlare in tedesco, ma credo che stamattina, data la grande affluenza di allievi, ho preferito che io parli in tedesco. Also, ich entschuldige mich bei den deutschen Kollegen, dass ich auf Italienisch die paar Worte spreche. Mi fa molto piacere di vedere qui tanta gioventù e spero lo stesso che loro, nonostante il fatto che io parli adesso italiano e non tedesco, mi comprenderanno. Ho avuto l'idea in un primo momento perché ho constatato che io forse, ditemi subito se sbaglio, ma che io sono l'unico qui in questa aula che ha ancora conosciuto Yedin giovane, cioè giovane è una cosa relativa, ma giovane che ti aveva appena 40 anni nel lontano 41. E parlerò forse di queste mie esperienze personali, di averlo incontrato in situazioni molto diverse e molto tragiche anche, parlerò forse domani, dirò due parole. Invece oggi cominciamo subito col lavoro e c'è però un cambiamento dovuto anche ai problemi di trasporto, che stamattina la prima relazione sarà quella del professor Alberico dell'Università di Bologna sulla riforma come criterio della storia della Chiesa. Poi, dato che il professor Brandmüller arriverà solo nel pomeriggio, parlerò il professor Erwin Iserloh dell'Università di Münster su Kirchengeschichte als Geschichte und Theologie in der Sicht Hubert Jedins. E poi parlerò ancora, speriamo, poi faremo la discussione e speriamo di aver tempo ancora, perché in tutti questi convegni c'è sempre il problema del tempo. Quello che viene poi sacrificato è normalmente la discussione, e questo proprio non vogliamo avere, perché proprio ci teniamo a una vivace, proficua discussione. Allora ci parlerà il nostro caro organizzatore, animatore e segretario generale del nostro istituto, il professor Prodi, sul binomio jediniano, riforma cattolica e controriforma e la storiografia italiana. Magari se ci fosse ancora più tempo, ma non credo, credo che saranno tre relazioni, per una quarta non ci sarà tempo. Poi nel pomeriggio c'è anche un cambiamento, in quanto il professor Remigius Boehm purtroppo non ha potuto venire, così avremo nel pomeriggio il professor Ganzer, Hubert Jedin und die dritte Periode des Konzils von Trient, poi il professor Adriano Prosperi, Hubert Jedin e la periodizzazione della storia della Chiesa intorno al Concilio di Trento, e il professor Boris Ulianic dell'Università di Napoli su Paolo Sarpi, storico del Concilio di Trento nell'opera di Jedin. Questo è il programma per oggi, e come vi ha già detto Prodi, domani sarà più la giornata più biografica, allora io rimando le mie poche osservazioni, che ricordi personali, a domani, che ha anche il vantaggio che non ripeterò cose che ha già detto l'amico Repken stasera, e invito tutti, perché stasera l'amico Repken parlerà in italiano, allora invito tutti i giovani anche di venire stasera a questa solenne manifestazione in onore del nostro amico scomparso. Giù in città. E giù in città, ah sì, appunto. Ci sarà possibilità, questo gruppo qui sta seduto o sta in piedi? O state seduto su un tavolo? Sta seduto, ah, meno male, perché mi fa sempre soggezione se io parlo e c'è gente che deve assistere stando in piedi. Bene, bene, allora sono tutti sistemati, non c'è bisogno di altre sedie. Bene, dunque do subito la parola al professor Giuseppe Alberico per la sua relazione La riforma come criterio della storia della Chiesa. Ma è la prima volta, dopo molte volte trascorse a parlare con Yedin, che parlo di Yedin e su Yedin, e non posso nascondere una commozione profonda che d'altronde coinvolge, credo, tutti gli amici e i colleghi che intervengono a questo incontro. Proprio per questo, e me ne scuso forse con i più giovani, ho preferito scrivere tutto quello che ritenevo necessario, opportuno dire in questa circostanza, per evitare di essere un poco travolto dalla emozione di questa nuova forma di incontro con Yedin. Il modo di fare storia di Yedin si presenta a chi ormai lo ripercorra come dominato da una duplice istanza, un'istanza positiva e un'istanza induttiva. Criteri e concetti storici, cioè, non sono introdotti nella ricerca storica dall'esterno di essa, né sono ipostatizzati come entità immobili, sottratte al divenire della vita degli uomini. Al contrario, è dall'interno dell'analisi degli eventi della storia che Yedin verifica, confronta, accetta o rifiuta ogni generalizzazione concettuale. Chi percepisse questo sorvegliato e geloso atteggiamento metodico come sintomo di empirismo, o vi volesse vedere un rifiuto a leggere lo sviluppo storico nei suoi fattori dominanti e di lungo periodo, sbaglierebbe grossolanamente. Persino quando afferma la necessità per lo storico della Chiesa di ricorrere alla teologia per la determinazione del concetto di Chiesa, Yedin non rinuncia affatto alla storicizzazione delle concezioni della Chiesa in relazione a epoche e contesti culturali determinati. Ne è inequivocabile testimonianza il lucido saggio presentato al Congresso Internazionale di Scienze Storiche del 1955, dedicato emblematicamente, mi sembra, allo sviluppo del concetto di Chiesa, non al concetto di Chiesa, ma al suo sviluppo. Nella prospettiva di queste premesse ora sinteticamente enunciate, ripercorrendo la produzione storica di Yedin, mi ha colpito la centralità che vi occupa la riforma, sia come reform che come reformazione, cioè come riforma nel senso generico del termine, sia come riforma protestante. D'altronde, già 15 anni fa, Iserlo e Röttgen avevano emblematicamente intitolato la miscellanea di studi in onore di Yedin stesso Reformata, Reformanda. Vorrei ora approfondire l'analisi di questo punto, formulando l'ipotesi che si tratti di un nodo cruciale della storiografia yediniana, forse il punto più alto e definitivo del suo apporto alla costruzione della storia della Chiesa come disciplina storica sempre più rigorosamente critica e anche autonoma. È noto che Yedin si è imbattuto nella Riforma sin dalla sua iniziazione al mestiere di storico della Chiesa. Ciò era implicito nella sua condizione di cattolico tedesco, nativamente obbligato a far fronte ad una condizione di fede divisa, di Glaubensspaltung, di chiese parallele, di confronto confessionale ravvicinato e quotidiano. Rispetto a questi dati, il giovane sacerdote slesiano si è posto presto in atteggiamento critico, impegnandosi cioè a capire attraverso l'analisi storica. Ne derivò la scelta di inserirsi nella tradizione degli studi sulla storia della Riforma enunciata nel saggio dell'ormai lontano 1931. Si può ritenere che si trattasse di un'opzione casuale o comunque motivata essenzialmente dalla condizione storica nella quale lo Jedin si era trovato a vivere. Forse neppure lui immaginava di contrarre allora un rapporto che lo avrebbe incessantemente impegnato per tutta la vita, né poteva prevedere che proprio la Riforma avrebbe costituito il fulcro di tale impegno. È opportuno richiamare, sia pure per accenni molto rapidi, il contesto di quell'impatto ormai lontano di Jedin con la Riforma. Da un punto di vista ecclesiale era dominante, a livello dottrinale, l'accezione della Chiesa Cattolica come società perfetta, societas perfecta, nella quale essere e dover essere tendevano a coincidere, mettendo la Chiesa stessa al riparo dall'evoluzione storica, non a caso d'altronde enfatizzata dai modernisti. La rivendicazione dell'autonomia originaria della Chiesa rispetto a qualsiasi altra società umana e quella della sua natura teandrica, umano-divina, portavano in primo piano, sin quasi ad assolutizzarli, aspetti e dimensioni della Chiesa come entità istituzionale compiuta in se stessa, estranea e al limite alternativa rispetto alla società umana e agli ordinamenti politici. Questo atteggiamento si saldava con una crescente resistenza da parte di Roma a fare spazio nella vita della Chiesa stessa alle istanze di rinnovamento espresse da un complesso di movimenti, da quello liturgico a quello ecumenico, da quello biblico a quello per la promozione del laicato. La spinta dinamica esercitata in tutte queste direzioni avrebbe dovuto attendere, tra misconoscimenti e persino umiliazioni, il Vaticano II per esprimersi con feconda libertà. Ma negli anni 30, 40, 50 predominava nel cattolicesimo ufficiale l'attitudine immobilista orora evocata. Contestualmente, le chiese cristiane si trovavano a far fronte in Europa, da un lato, alle conseguenze dell'affermazione della rivoluzione bolscevica in Russia, da un altro lato, alla presa del potere da parte del fascismo e del nazismo, mentre un pungente laicismo anticlericale serpeggiava nei regimi democratici. Questa congiuntura rafforzava, quasi inevitabilmente, l'orientamento cattolico ad un arroccamento difensivo, demonizzando in blocco la società umana, ma anche tutti coloro che promuovevano un atteggiamento più dinamico all'interno della Chiesa stessa. In questa cornice, che mi si perdonerà estremamente schematica, la tematizzazione della Riforma della Chiesa aveva, ad occhi cattolici, una automatica colorazione protestante o modernista. Era cioè, in una parola, improponibile. La cultura cattolica accettava nella stragrande maggioranza una confisca protestante dell'idea di riforma della Chiesa, al punto che si era creata correntemente una identificazione, o almeno un'inscindibile connessione tra riforma della Chiesa e riforma protestante, aggravata dall'esistenza nelle lingue latine di un solo sostantivo, non abbiamo la distinzione tra riforma e riformazione. In questa cornice, Jedin intraprende la ricerca storica, proponendosi un ulteriore passo avanti verso il completo superamento della pregiudiziale controversista che aveva condizionato la storiografia tedesca, ma non solo tedesca, sulle origini della riforma protestante. Lungo questo itinerario, Iedin concentrerà la sua ricerca soprattutto intorno a due poli: la riforma cattolica come movimento gemello piuttosto che subalterno rispetto alla riforma protestante e il Concilio di Trento come evento bifronte, nato cioè come assise dell'unica chiesa cristiana dell'Occidente e conclusosi come rifondazione del cattolicesimo romano. La conoscenza di entrambi questi fenomeni storici indurrà a riguadagnare progressivamente un'accezione plenaria di riforma in quanto problema dell'intera Chiesa e di tutte le sue confessioni, come anche di tutti i momenti forti della sua storia. I passaggi più significativi di questa presa di coscienza sono scanditi dalla stessa opera storica di Iedin, che ora è bene ripercorrere, sia pure per esemplificazioni significative, piuttosto che offrendo un inventario esauriente che sarebbe necessariamente imponente. Tratteggiando alla fine della Seconda Guerra Mondiale il significato del Concilio di Trento nella storia della Chiesa, Iedin era spinto a sottolineare la tensione manifestatasi durante il Concilio stesso tra ideale di riforma della Chiesa e concreta legislazione di riforma. Tensione ancora più chiara di fronte al corpo delle riforme tridentine rapportato alle attese e ai progetti dell'inizio del XVI secolo. Già in questa occasione viene usata l'espressione epoca delle riforme, con la quale la riforma della Chiesa, al plurale peraltro, è utilizzata come riferimento per modificare la periodizzazione della storia della Chiesa tra Medioevo e età moderna. Iedin stava ormai lavorando a una delle sue opere più riuscite, il volume introduttivo alla storia del Concilio di Trento. La scelta, che costituisce nel modo di vedere un'autentica svolta storiografica, di premettere alla storia del Tridentino una rilettura della vita della Chiesa occidentale a partire dal Concilio di Costanza, obbligò lo storico a familiarizzarsi con la problematica di decadenza e di riforma suscitata da istanze sempre più pressanti che chiedevano una profonda revisione evangelica della situazione ecclesiastica e della stessa condizione cristiana. Questo lavoro sollecitò un approfondimento critico di molti aspetti di tale problematica e Iedin vi dedicò varie puntualizzazioni il cui valore trascende la circostanza storica concreta alla quale erano riferite. Cito: la coscienza della non corrispondenza tra la realizzazione storica della Chiesa e il suo dover essere è una sensazione antica quasi quanto la Chiesa, scrive nella prima pagina del volume ora ricordato, formulando un'osservazione generale che coinvolge l'intero arco della storia della Chiesa. Entrando nel vivo del dibattito sulla decadenza e sui movimenti di riforma, Iedin rileva come, accanto al fallimento dei progetti per una riforma in capite et in membris, si fosse affermata l'autoriforma delle membra, strada più lunga, ma che mostra in atto un'alternativa reale al dilemma decadenza o riforma generale. Anche in questo caso è la critica storica delle fonti che porta lo studioso a constatare un'insospettata articolazione dinamica di un concetto apparentemente monolitico, quello appunto di riforma. Seguendo un metodo analogo, Iedin osservava come nel 1540, cito, chi pronunciava la parola reformatio doveva, dapprima, far comprendere che egli non toccava nessuna parte vitale dell'antica fede, ma promuoveva il rinnovamento della Chiesa in spirito cattolico. Fine della citazione. Veniva così alla luce una questione cruciale. quella del contesto storico delle iniziative di riforma, che aveva imposto alla vigilia del Tridentino, ma non solo allora. Si ricordi che quando Jedin scriveva queste note, Vre e fausse réformes de l'Église di Congar era già scritta, ma non poteva essere edita. Si poneva il problema di una legittimazione previa per chiunque volesse assumersi la responsabilità di usare quel termine, reformatio ecclesia. Lo studio degli eventi consente a Jedin anche una ulteriore acquisizione. Il prolungato rifiuto di realizzare una riforma causa il passaggio alla rivoluzione. Di nuovo un'osservazione il cui spessore trascende l'evento che la suscita. È ormai chiaro che Jedin era stato portato dalla ricerca a guadagnare un concetto di riforma della Chiesa nei secoli XV-XVI molto più ampio e articolato di quello di riforma protestante, superando la coestensività tra riforma della Chiesa e riforma protestante, cara controversisticamente a molti cattolici come a molti riformati. D'altronde, già alcuni anni prima, delineando il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica, Jedin aveva fatto riferimento alla dialettica tra decadenza e riforma, come ad una alternanza ricorrente nella vita della Chiesa, sia pure con caratteristiche ogni volta diverse. In tale occasione, egli aveva anche osservato come i movimenti di riforma hanno perseguito abitualmente un ideale misto, nel quale cioè confluiva sia il modello della Chiesa delle origini che un'istanza di cambiamento in vista di un adattamento a nuove, concrete necessità. Si operava pertanto una storicizzazione sostanziale del concetto di riforma per cui la storia della Chiesa conosce solo riforme al plurale piuttosto che la riforma al singolare. Nella prefazione, scritta per l'edizione italiana del 1950, allo stesso volume, allo stesso saggio sull'ideale del vescovo nella riforma cattolica, Jedin metteva lucidamente a fuoco questo aspetto, osservando che mentre la riforma, cito, come rinnovamento interiore della Chiesa, suo visibile ritrovarsi, suo ripiegarsi entro se stessa sui compiti assegnateli dal Cristo, è sempre in sostanza opera dello Spirito Santo e come tale si compie nell'intimità dell'anima umana sotto l'influsso della grazia, lo storico la conosce solo nei suoi effetti sulla vita concreta. Qui, mi pare, la differenza tra riforma e riforme viene riferita alla distinzione tra storia e metastoria, con un effetto chiarificatore e radicale, sottolineando l'estraneità di Jedin a concettualizzazioni a prioristiche della realtà storica. Poco tempo dopo, discutendo le osservazioni critiche di Lorz al primo tomo della storia del Tridentino, Jedin è indotto a mettere a fuoco alcuni punti importanti di questa problematica. Anzitutto, ribadisce che uno dei problemi centrali del lavoro storico è quello dei criteri di valutazione, dai quali non è possibile che lo storico prescinda. Cito, concetti storici come fioritura e decadenza, abuso e riforma denotano già una applicazione di tali criteri. Fine della citazione. Ma Jedin è ben consapevole che nel lavoro storico il ricorso a questi concetti deve articolarsi, piegandosi a quanto emerge dalle fonti. Perciò non esita a riconoscere che nell'applicazione dei concetti generali ai fenomeni della storia della Chiesa deve prevalere la fedeltà al dato storico. Proprio per questo si deve affermare che nella storia della Chiesa non esiste progresso assoluto, gli scrive, ma piuttosto un'alternanza tra decadenza e riforme. In questa prospettiva metodologica, Jedin ammette di aver riconosciuto alla Curia Romana, nelle vicende del XVI secolo, il diritto dell'esistente, cioè la forza, non meramente materiale, di un assetto istituzionale esistente, ancorché gravemente inquinato da abusi sistematici. Ma invita Lorz, che gli aveva contestato una eccessiva arrendevolezza in quel riconoscimento, ma invita Lorz a prendere atto di quanto le fonti testimoniano a favore di tale valutazione. Egli anzi non si ferma qui, ma afferma che proprio il riconoscimento del diritto dell'esistente è una delle discriminanti tra riforma e rivoluzione. Così, ancora una volta, Iedin ricava un criterio generale dall'osservazione attenta del passato, ma forse anche nel momento in cui scriveva, Iedin stesso, era necessario dare assicurazioni di non voler introdurre, mediante una riforma, una rivoluzione. Quando, a metà degli anni 50, Iedin ha occasione di sottolineare l'importanza nuova e centrale del concetto di Chiesa per la storia della Chiesa, ciò lo spinge ad approfondire ulteriormente la rilevanza per la storiografia ecclesiastica del concetto di riforma, allora oggetto di dibattito anche tra i teologi in seguito alla pubblicazione e alle disavventure del libro di Congar, già ricordato, come Iedin stesso ricorda in una nota. Negli anni 60, infine, l'esperienza del Vaticano II lo sollecitò a discutere a fondo la tematica della riforma sotto la spinta della proposta di aggiornamento di Giovanni XXIII. Nella misura in cui anche Iedin assimila la riscoperta della Chiesa come popolo e movimento incessante nel tempo, egli coglie sempre meglio che, cito, una Chiesa non è come una nave compiutamente formata che viaggia sull'oceano dei tempi, ma cresce come un granello di senapa e pertanto il concetto di sviluppo non soltanto può, ma deve essere applicato alla storia della Chiesa. Fine della citazione. Uno sviluppo che non è solo progresso, come aveva già affermato, perché, di nuovo cito, nella storia della Chiesa non soltanto l'umano a posto, ma anche il peccato e la colpa dei suoi membri. Fine della citazione. La Chiesa, pur non essendo mai andata in rovina, osserva ancora Iedin, ha attraversato periodi di ristagno e di decadenza e ne è sempre uscita rinnovandosi, riformata. La storia della Chiesa, dunque, non solo non può considerare la riforma un fatto estraneo o eccezionale, ma deve coglierne il valore permanente in una Chiesa pellegrina, aggiungeva Iedin, che non diventa mai in terra una Chiesa trionfante. Ciò che Iedin non condivide è una teoria della decadenza, cioè di un progressivo distacco della Chiesa da una condizione ideale della Chiesa primitiva, tanto più che nei periodi di decadenza, egli osserva, la Chiesa ha generato santi, come d'altronde vi furono ombre nei periodi di fioritura. E ancora una citazione, tradizione e progresso non possono essere separati l'uno dall'altro nella storia della Chiesa. Essi formano una coppia di termini omogenei. Tradizione senza progresso sarebbe cristallizzazione, progresso senza tradizione sarebbe rivoluzione. La considerazione della storia della Chiesa come un'unità continua conferisce all'acquisizione iediniana del rilievo della riforma della Chiesa come criterio permanente di tale storia tutto il suo valore e la sua attualità. Non si tratta solo di un fenomeno temporaneo o congiunturale, ma di una costante che la critica storica può assumere come uno dei criteri maggiori del proprio metodo. Sarebbe ora possibile ripercorrere di nuovo la storiografia iediniana per rinvenirvi in misura molto elevata le caratteristiche analitiche di tale criterio. Mi sia consentito di riepilogarle schematicamente, perché occuperebbe troppo tempo a procedere altrimenti. Appare subito chiaro che assumere la reformatio ecclesiae come categoria del lavoro storiografico implica una visione di lungo periodo e essenzialmente unitaria della storia della Chiesa e perciò anche transconfessionale. Si tratta cioè di una categoria metodologicamente analoga, faccio solo qualche esempio, a quelle di sinodalità, di preghiera, di depositum fidei, emergente dunque dal tessuto stesso della vita delle chiese. Ancora, riforma della Chiesa coinvolge concetti speculari e opposti, come decadenza, deformatio, e rivoluzione. Essa suppone l'esistenza di una dinamica positiva, ma anche di una tensione tra progetto e realizzazione, nonché una possibilità non solo di realizzazione, ma anche di fallimento e di reversibilità. Inoltre, è possibile distinguere inizio, apice e declino di ciascuna riforma. Sono anche classificabili i soggetti agenti di riforma, talora le famiglie religiose, tutta la lunga serie di studi di Yedin sulla riforma di ordini religiosi avanti il Concilio di Trento, le famiglie religiose, tal'altra i concili, tal'altra ancora i papi, o invece anche la Chiesa di un determinato ambito territoriale, basterebbe pensare agli inizi della riforma gregoriana. Altrettanto è possibile identificare ambiti tipici di riforma, il vertice della Chiesa, riforma in capite, l'apparato ecclesiastico, riforma in membris, singoli gruppi di fedeli, autoriforma, e accanto agli ambiti almeno due distinti livelli, quello della riforma delle istituzioni e quello della riforma interiore. Dal punto di vista delle cause, possono essere di interne, dall'evangelismo, ritorno all'Evangelo, al rifiuto delle interferenze politiche, e di esterne, dall'iniziativa del potere laico, che impone la riforma alla Chiesa, sino al mutamento delle condizioni storico-ambientali e anche alla realizzazione di una riforma di diversa ispirazione, che suscita una controriforma. Infine, ogni fase di riforma deve scegliersi dei mezzi idonei, dal ripristino dell'osservanza del diritto vigente ma inoperante, alla statuizione di un nuovo diritto, alla rinuncia a mezzi legali per preferire l'esempio e la persuasione. Non si tratta dunque di uno strumento inerte, ma di un criterio funzionale ad una comprensione sempre più adeguata della vita della Chiesa nel tempo. L'elaborazione, passatemi questa espressione paradossale, empirico-teorica di Yedin è andata molto avanti. D'altronde, in sinergia non solo col lavoro teologico di Congar e con quelli successivi di Alois Müller e di Jean-Jacques von Almen, ma anche con le ricerche storiche di Lehner sull'idea di riforma, di Dicce, di Miccoli, di Bori, sul richiamo alla Chiesa primitiva. Oggi è possibile rendersi conto quanto sia chiarificatore e deideologizzante l'apporto yediniano in ordine a questioni cruciali, come quella della autenticità o meno di una riforma, impostazione tipicamente teologica, pre e fosse reforma, che in questa prospettiva viene ricondotta alla distinzione tra riforma e rivoluzione. Analogamente, la nozione di pre-riforma, già in auge alla fine del secolo scorso e oggi ripresa da taluno, mostra la sua sostanziale matrice apologetico-controversista nella misura in cui si tiene ferma la storicizzazione della riforma nelle riforme. Quanto può essere fecondo analizzare comparativamente momenti diversi di riforma, altrettanto è estraneo ad una sana storiografia proiettare retrospettivamente un evento storico, in questo caso la riforma protestante, che, per rilevante che sia, è pur sempre datato. Si potrebbe anche osservare che la formalizzazione della riforma della Chiesa come categoria storiografica risente dell'orizzonte occidentale e prevalentemente europeo dell'opera storica di Yedin. Ciò è vero. È vero nella misura in cui la plantatio ecclesiae, attuale per immense aree culturali ancora oggi, è qualitativamente distinta dalla reformatio ecclesi e tuttavia l'adeguatezza del criterio della riforma a cogliere uno dei fattori costitutivi della vicenda ecclesiale nelle fasi successive alla plantatio ecclesiae è innegabile. Forse altri sviluppi sono possibili nel solco del medesimo metodo. Sarebbe una testimonianza di fedeltà ad una memoria vivente e sempre stimolante. Grazie.